Dialogo 45. Raccontò Abu Huraira: un giorno un uomo andò dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e gli disse: dammi un consiglio. Gli rispose: non adirarti. E alle successive domande di dare un consiglio rispose più volte dicendo: non adirarti, questo è il consiglio.